Vuoi salire da me? Eh? Ma dico, vuoi salire da me? Sì, cioè, vuoi salire da me? Sì, no, in che senso? Vuoi salire da me? Lei è lì, davanti al suo portone, e ti sta chiedendo di salire. Tu che fai? Che fai? Sali, sali! Che sta aspettando? Sali! Lascia perdere, non sali! Sali, sali, infarcoglione! Dammi retta, non te compromette! Sali, sali! Che stasera sei troppo! Lascia perdere, te fai una sega a casa, lascia perdere! E tu che fai? La luna ti guarda, lei lì davanti a te ti sta chiedendo di salire. E mentre la morsa del tempo ti stringe alla gola, perché lei non è che starà lì per sempre, ti si spalanca davanti un immaginario chiarissimo. Ah! Ah! Ah! Ah sì! Sì, Anna, sì! Ah! Ah! Oddio! Sì, beh, immaginario comunque. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Con te mi trovo bene, lo sai. Pure io. Ah! Ah! Senti, ma se convivessimo, eh? Beh, potremmo prendere una casa solo per noi due, così la smetto di dividere l'affitto con altri quattro ragazzini di 22 anni che si fanno le canne dalla mattina alla sera. Beh, ti amo pure io. Sono incinta, ecco, de già. E come lo chiamiamo? Se è maschio? Se è femmina? Se è un po'... Mm-mm. Se è cinese? Come cinese? Oh, spinga, signora, spinga! Spinga, signora! Ah! Ah! Maschio! Come lo chiamiamo? Tommasino. Come, scusa? Tommasino. Ma Tommasino è il nome? No, no, no, lo chiamiamo Tommasino. E eccolo Tommasino. Guardalo, Tommasino, guardalo. E guarda Tommasino, guardalo, guardalo. E guarda Tommasino, guardalo, guardalo. E guarda Tommasino come gioca con mamma. E guarda Tommasino come mangia con mamma. E guarda Tommasino fa la pipì con mamma. E guarda Tommasino fa la cacca con mamma. E guarda Tommasino corre, corre che sta qua. E guarda Tommasino corre, corre che va là. E guarda Tommasino la sua faccia va a lecca. E Tommasino, guarda Tommasino, sempre alle spalle Tommasino. E guarda Tommasino corre, corre che va là. E guarda Tommasino dalla sedia sta a casca. E guarda la capoccia sullo spigolo là là. La capoccia sullo spigolo là là, sullo spigolo. Guarda Tommasino che casca. Guarda Tommasino sullo spigolo, la capoccia, tutto il sangue Tommasino. Se ho capito, guarda, guarda, ma un dito non lo arsi manco a pagate oro. Sta lì che guarda, guarda, ma un dito non lo arsi per farti intervenire. Che cosa deve fare Tommasino? Ingoiare una Molotov? In quel caso forse ti ricorderesti di essere un padre. Qua dentro devo fare tutto io. Io, che sono la madre. La madre. La madre. Tommasino, dove vai? Dove, che fai? Non te sporca. Non suda. Non te... Che te sei messo in bocca? Spuda. State fermo. Parco giochi. Tommasino, 6 anni, davanti a lui un prato di 1/2 km² a un pallone. Cosa ti aspetti che faccia? Che ipotizzi un mondo migliore, che rifletta sulla società contemporanea. Va internato un ragazzino così, è normale, un bambino gioca. Ah, ma c'ho sete. State fermo, sa? Ho detto che c'ho sete. Te pare il momento di beve? Non te schizza! Non te bagna! Lui, 6 anni, fontanella qua. Non te schizza, cioè davanti alle cascate del Niagara, come fai un bambino, 6 anni, è alto così, ma vai anche a dire una fontanella di 2,40 m, vediamo se non ti schizzi a 37 anni, vediamo, 6 anni, a 6 anni prendi per buono tutto quello che ti dicono, mettici l'acqua fredda, per quante volte ce l'hanno detto, mettici l'acqua fredda, per qualsiasi cosa, mettici l'acqua fredda, batti la spalla, mettici l'acqua fredda, sì ma è lussato, serve il gesto, mettici l'acqua fredda, e tu lo fai. Lo fai perché a 6 anni sai pochissime cose. Sai che ogni tanto, no? Il pisello fa quella cosa strana, lì ti si gonfia. Tu non capisci. Vai da tua madre, dice, mamma, che succede? Mettici l'acqua fredda. E tu lo fai, stai lì che ci metti l'acqua fredda. Quanta umiliazione c'è in questa cosa, l'acqua fredda! E l'abbiamo fatto tutti a 6 anni, l'abbiamo fatto tutti, l'amore. L'amore a 6 anni. L'amore a 6 anni è semplicissimo. L'amore, pensiamo, no? L'amore. L'amore è, amore mio... Tu sei tutta la mia vita, io ti amo, tu mi ami, sì, no, forse, metti una crocetta, è semplicissimo, amore, è semplicissimo, no, forse, metti una... Tommasino, che stai a fare? Che te sta a mangiare? Lascialo, state zitto qua, fa tutto io, sono la madre! Tommasino, che stai a fare? Che te sta a mangiare? Sempre a ruminare, sempre a mangiare, che te rumini, che te mastichi, che... La pizza! Non t'azzarda a mangiare la pizza a quest'ora che te rovini il pranzo! Ma io non mi rovino il pranzo, anzi la pizza è buona. T'ho detto che ti rovini il pranzo. Ma mancano 2 ore e mezza al pranzo, sono 11 di mattina. Non t'azzardassa. Butta qua la pizza. Butta qua, sputa. T'ho detto Tommasino, ma non c'è qua. Sputa. ormai la parola d'ordine è sputa. Ci avremo una generazione di gente che sputa. E poi guarda, guarda, rossa se l'è presa la pizza, rossa. E se te sporchi? Bianca te la devi prendere. Non mi piace. Porta rispetto a tua madre, sa? Ma che c'entra rispetto col gusto della pizza? Non mi risponde, sa? Chi ti ha detto di mangiare la pizza? Ma veramente avrei deciso. Non mi risponde, sa? Chi ti ha detto di mangiare la pizza? No, come dice, non mi risponde, sa? Ho capito, ma se mi fa. No, ma mi stai a fa paura, lavoro tutto bene? Basta, basta. Io non ce la faccio più. E Tomasino, il lavoro, e Tomasino, lavoro, lavoro, Tomasino. Lo capisci che questa routine mi devasta, mi ammazza. Ho capito, guarda, per spezzare la routine ti porto a cena fuori, dai. Sì, ti porto a cena fuori stasera, dai. Sì, e dove andiamo? Ma sempre là? E qualcos'altro? Qualcosa di nuovo? Qualcosa di inaspettato? Di sorprendente? Di avvincente? Di esilarante? Di avvolgente? Aspetta, stita po', che? Shh, hai sentito? Che? Che cosa? Stita po', shh, hai sentito? Che? Che? Shh, stita po', hai sentito? No. Vieni qua, che? Shh, stita po', senti. Vieni qua, shh, che? Stita, vieni qua. Sentito, che? Zitta po', shh, senti, hai sentito? Ma da dove vieni? Piano di sotto, dal piano di sotto! E chi è? Zitta. Oggi mi metto in gingheri, mi acchitto come si deve, mi faccio bella per me. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono. Guarda quello come mi guarda. Oh, squilla il telefono. Luglio col bene che ti voglio, ti vo. E la suoneria. Luglio col bene che ti voglio, ti vo. Che faccio? Rispondo? Rispondo? No. Mi faccio attendere. Luglio col bene che ti voglio, ti boh, che faccio? Rispondo? Rispondo? No. Guarda quello come mi guarda! Lui mi vuole, lui è pronto a lasciarla per me, lui vuole solo il mio corpo, ma lo credo! Guarda che donnino, che silhouette, che corpicino, che ciclette. Guarda che prestanza, che vigore, che eleganza, che stupore. Guarda che bacino. Guarda che bacino. Che prontezza nell'acrobazia. No, dica, hai visto? 6 mesi di gallette di riso per fare sta cosa, eh? Non le fai certe cose se non passi per la galletta di riso. Non ce l'hai certa flessibilità motoria se non passi per la galletta di riso. Tutto è dietetico, tutto è bilanciato. Anche il partner è bilanciato e di conseguenza il rapporto sessuale è dietetico. Né troppo lungo, né troppo corto, una via di mezzo. Già, ma non posso manco bruciare troppo. C'è manca solo che non so, che non so. Luglio col bene che ti voglio. Che faccio? Rispondo? Rispondo? Che faccio? Rispondo? No! Guarda quello come mi guarda! Specchio, specchio delle mie brame. Chi è che telefona a quest'ora nel reame? Una cosa importante? Un lutto in famiglia? Un quiz telefonico? I testimoni di Geova telefonici? Un'intervista alla beatitudine, la morte? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa chi sarà? Oh, senti, squilla il telefono. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Che faccio, rispondo? Luglio col bene che ti voglio, ti va. Squilla un altro telefono. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Ma tutti a me mi cercano oggi. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Oppure no, che faccio? Squilla un altro telefono. Luglio col bene che ti voglio, ti va. Non so che cosa fare. Ma che faccio rispondo? E secondo te dopo tutto sto casino io devo rispondere al telefono così? 6 mesi di addominali, fitness e mondo salsa, devo rispondere al telefono così? E certo, ma mai vista bene? Io qua sotto c'ho una conciatura che levete. Dormo appesa per aria per non scombinare il liscio. Mi sono incollato dai piedi al soffitto per non rovinare l'acconciatura di rispondere al telefono a te, certo. Io sono sceso a patti con la solitudine, la disperazione, la devastazione dell'anima, lo scetticismo davanti a ogni credo religioso per mantenere il peso forma nonostante l'ondulato che fa massa di rispondere al telefono a te, certo, perché c'è la voce simpatica, perché fai le imitazioni, perché racconti bene le barzellette. Ah, bello! Io ho rinunciato alla matriciana, alla casa e pepe, alla banca scottatita, alla coda alla cinara, agli odonarelli, aglio, olio e sugna! Lo sai che è la sugna? La sugna, c'è presente l'olio per motore della macchina quando ha raggiunto i 20.000 km? Quella è la sugna! Che io mi farei certe scofanate! E invece mi mangio tutte queste cose che sanno dei polistirolo, devo venire a rispondere al telefono a te, certo. E te neanche te lo immagini il sacrificio di rinunciare alla scarpetta col pane nel sugo. Guarda quello come mi guarda! Via, via, via, ma che vi guardate? Via, via, via, ma che vi toccate? Via, via, via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, via, via, via, via, via, via. Adesso che ho raggiunto il peso forma, la solitudine non è più soltanto una scelta, ma una forma di sopravvivenza. La solitudine che cos'è? La solitudine è il caffè ristretto, mezzo bruciato, che ti servono al ristorante senza la bustina di zucchero perché si sono dimenticati di riportartela. Un boccone amaro da buttare giù, mi dirai, sì, ma almeno non fa ingrassare. Anche perché voglio dire, guarda che donnino, che silhouette, che corpicino, che ciclette. Ma guarda che prestanza, che vigore, che eleganza, che stupore. Ma guarda che donnino, che silhouette, che corpicino, che ciclette. Ma guarda che prestanza, che vigore, che eleganza, che stupore. Ma guarda che donnino, che silhouette, che corpicino, che ciclette. Ma guarda che prestanza, che vigore, che eleganza, che stupore. Ma che bella solitudine. Ma che bella solitudine. Ma che bella solitudine. Intrecci amorosi, parte 1. Susanna. Susanna è piccola, non vuole stare con nessuno, solo con la madre. Poiché dentro cova la paura che il padre la abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada. Susanna per questo motivo si aggrappa compulsivamente alla gonna della madre giorno e notte per superare questa sindrome da abbandono d'autogrill. Fin quando compie 15 anni e scoperta la gioia del sesso sbarazzino, non vuole più stare solo con la madre e staccatasi dalla gonna materna si attacca ai pantaloni degli amichetti di scuola Maurizio, Piero, Ferdinando, Gar Catena! Tutta gente a moto, per carità, soprattutto Gar Catena! A tutti e quattro si attacca Susanna, sempre compulsivamente, sempre per contrastare la sindrome d'abbandono d'autogrill. A tutti e quattro si attacca, tranne Giuliano, ragazzino troppo a modo per il sesso sbarazzino di Susanna. Susanna compie 28 anni e dimenticate anche gli amici di scuola, Maurizio, Piero, Ferdinando, Gar Catena, intraprende una relazione proprio con Giuliano, che nel frattempo si è fatto una posizione. E per paura che Giuliano la abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada, Susanna si aggrappa compulsivamente ai pantaloni di Giuliano giorno e notte, chiedendo di tutto di più a Giuliano. Una casa a doppio livello, la Golf, una macchina per lui e per lei, la sera sempre fuori, quest'estate portami in un posto diverso, stupiscimi, e prestazioni sessuali di una certa importanza, perché ricordiamoci che Susanna è sempre quella del sesso sbarazzino. Ma a 40 anni, Susanna, a causa della prostata prematuramente ingrossata di Giuliano, un'ipertrofia prostatica giustificata dallo stress di una vita spinta sull'acceleratore, Susanna comincia a aggrapparsi a tutti i pantaloni degli amici di Giuliano quando Giuliano va a lavorare. Con del sesso sbarazzino, sempre per combattere questa invincibile sindrome da abbandono d'autogrill. A 55 anni Susanna continua ad attaccarsi ai pantaloni degli amici di Giuliano, nonostante abbia ripreso ad aggrapparsi pure ai pantaloni di Giuliano, che nel frattempo, con grande fatica, grazie anche a degli antibiotici molto forti prescritti dall'andrologo, tenta il tutto per tutto. Mi aggrappo a più persone possibili, ha detto Susanna in un'intervista. Hai visto mai superarsi definitivamente sta sindrome da abbandono d'autogrill? Susanna, nonostante l'età che avanza, 65 anni, ci prende sempre più gusto a stare con gli amici di Giuliano e a 70 anni, proprio ultimamente, ha ripreso a frequentare anche un vecchio amico di gioventù, Gar Catena! Susanna non ha mai lasciato Giuliano, forse perché dentro cova sempre la paura che Giuliano la abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada. Che se Giuliano poco poco si accorge di quello che sta combinando Susanna, succede un macello, Tocca chiamare 113, non lo fermi più Giuliano, C'è una prostata enorme, Giuliano, diventa una scheggia impazzita, Giuliano, è buono buono, è tranquillo. Che se il padre di Susanna, a suo tempo, l'avesse veramente lasciata all'autogrill in mezzo all'autostrada, sì certo, magari Susanna sarebbe stata rapita da qualche malvivente. Ma non facevamo fa sta vita de merda a Giuliano? E namo su. Ci sei andato a prendere Tommasino a scuola? Oddio, mi sono scordato. Non te vado a fare un cazzo. Anna, scusa, no, è che mi è passato di mente. No, ti è passato di mente, certo. C'ha la mente occupata, porastella. Dai su, dai su. Dai su. Ma dai su che io vorrei sapere tu a che pensi. No, io vorrei sapere tu a che pensi, eh? A che pensi? E che penso? Penso Intrecci amorosi parte 2, Gaudenzio e Pina. Gaudenzio ha sposato Pina, che come madre c'ha Ombretta. Pina ha sposato Gaudenzio, che come padre c'ha Antonello. Pina e Gaudenzio stanno insieme, no? Se sono sposati ogni tanto, però se sono sposati. Con gli anni però Gaudenzio si accorge che Pina fisicamente somiglia sempre di più alla madre Ombretta. E Pina, vedendo Gaudenzio, si accorge che invece di somigliare al padre Antonello, pure lui comincia a somigliare a Ombretta, la madre di Pina. È una cosa stranissima, è una cosa strana, mai vista prima. Gaudenzio aveva paura di dire a Pina che somigliava a Ombretta. Pina invece era angosciata nel constatare quanto pure Gaudenzio somigliasse fisicamente a Ombretta. Pure perché, voglio dire, Gaudenzio è un uomo e Ombretta è una signora di 87 anni con delle caviglie importanti. Ma poi Gaudenzio è morto. Come è morto? Sì, è morto, è una storiaccia. Ma come è morto? Sì, è morto. Ma raccontami, dimmi. No, me la lascia stare. E Pina, Pina? Pina oggi esce con Susanna, quella di prima, quella del sesso sbarazzino, e tutte e due si attaccano ai pantaloni degli amici di Giuliano, compreso Catena! Una bella comitiva si è creata, lascia perdere. Sì, una bella comitiva. Sì. Insomma, sto trasloco, eh? Oh, tocca cambiare casa qua, siamo in tre adesso, siamo io, te e Tommasino. Ho capito, Anna, lo so, dai, andiamo a bere casa. No, non è che mi rifà un favore, eh? Se ci vogliamo andare, ci andiamo. Ci andiamo? Sì, ci andiamo. Questa ti piace? Questa ti piace? Ma non lo so, sai. Questa è troppo buia. Sì, è troppo buia. Sì. E questa è. Questa no, questa c'è gente. No, questa. No, qua c'è abita catena, non mi piace. No. Questa è. Questa non lo so, sai. Questa è troppo piccola. Sì. E questa è troppo grande. Sì. Questa è troppo alta. Vedi che è troppo. Questa è troppo bassa. Sì. No, questa è troppo. Vedi che è stantia. Questa. Non c'è illuminazione. Questa non mi piace. No, questa. Non lo famo il traslogo. Ma sì! Tanto non lo famo. Te dico di sì, io vorrei sapere quando lo famo sto trasloco. Quando? Lo famo. Te dico, ma quando? Lo famo, sì, ma quando? Soggiorni difficili. Soggiornate difficili. Abbiamo da poco fatto il trasloco, io e Piero. Siamo andati a vivere insieme, io e Piero. Abbiamo preso tutto. Tutto, eh? Questo, quello, quell'altro. Tutto, eh? Ci manca solo. Lo strofinaccio. Lavo tutto, piatti, bicchieri, pavimenti, questo, quello, quell'altro, tutto senza lo strofinaccio. Non c'è proprio lo strofinaccio, dov'è? Non c'è, dov'è? Piero è contro la filosofia dello strofinaccio. È restio alla figura dello strofinaccio. Piero non fa niente dalla mattina alla sera, ma è contro la filosofia dello strofinaccio. Niente fa Piero, niente, manco se lava. Che poi se ci avessi lo strofinaccio, visto che Piero non si alza manco per lavarsi, tra un mobile e l'altro una botta di strofinaccio gli darei pure a Piero, no? Tra un mobile e l'altro una botta di strofinaccio, ma giusto per togliere le incrostazioni, per evitare la proliferazione batterica. Sono contraria, sono contraria per sto fatto dello strofinaccio. Sono proprio contraria. Che uomo è? Uno che non fa niente dalla mattina alla sera e pontifica sulla questione dello strofinaccio. Che uomo è? Uno che non fa niente, che pur di non lavasse manco se fa passare lo strofinaccio addosso. Sono contrario, no? Sono parecchio contrario, no. Quando è espresso in maniera animata a Piero il problema dello strofinaccio, Piero finalmente si è alzato. E ma, gonfiata, de botte, sono contrariata. Sono contrariata da queste botte legate alla questione dello strofinaccio. L'altro giorno però, mentre Piero si stava a riposare, ho preso il coltellaccio. E ho fatto a pezzi Piero. A pezzi l'ho fatto, col coltellaccio. L'ho ridotto una salvietta, sì, l'ho ridotto una pezzetta. A una pezzetta l'ho ridotto, mo non so più contrariata. Perché mo che ho ridotto Piero a una pezzetta, sì certo, non ci avrò più l'uomo, ma ho risolto il problema dello strofinaccio. Io vivo da solo perché c'ho un alito che te sventra, c'ho un alito pestilenziale. Ogni parola è un'istigazione alla violenza. Una chiacchierata dei 5 minuti con me comincia a piaccinghiare la fidanzata quando torni a casa. Per questo gnacche gnacche gnacche gnacche. A mattina gnacche gnacche gnacche. E il pomeriggio gnecco gnecco, la sera gnocco gnocco. Gnacche gnacche gnecco gnecco gnocco gnocco. A te ti piace gnacche gnacche, a lui piace gnocco gnocco. Sono punti di vista, eh? Gnacche gnacche gnecco gnocco gnocco. gnacca gnacca, gnieco gnieco, gnocco gnocco. Poi c'è pure gnico gnico, gnico gnico, so orecchie, gnico gnico. E poi c'è gnucu gnucu che ha la testa, gnucu gnucu. E gnacca gnacca, gnacca gnacca la faccia. Se te devi lavare la faccia, gnacca gnacca. Poi può pure fare un gesto solo, legato, gnacca gnacca gnacca gnacca. Oppure gnacca gnacca gnacca gnacca gnico gnico. O gnacca gnacca gnica gnico gnico gnico gnico gnico. Oppure gnacca gnacca gnico gnico gnico gnico gnico gnico. E finalmente famo gnocco gnocco e lui è contento. E finalmente lui è contento. Ti senti appagato. Ma la prassi è la mattina gnacca gnacca, pomeriggio gnacco gnacco e la sera gnocco gnocco. Ma non è che posso fare la mattina gnocco gnocco e la sera gnacca gnacca. Perché se durante la giornata non ho fatto gnacca gnacca, io ammazzo qualcuno, lo smaterializzo. Vuoi parlare con me senza che io ho fatto gnacche gnacche? Te vuoi confidare con me senza che ho fatto gnacche gnacche? Metterci a parlare di nascosto per non farci sentire dagli altri. Io desdereno! Tu mi svieni a me da consigli, a me da riflessione, per questo gnacche gnacche gnacche. Per capirci. Parla con me come avete una spina dentro un occhio, un chiodo nel ginocchio, due lame per i bracciali e un ascensore scendisali. Dai tutti insieme. Parla con me come avete una spina dentro un occhio, un chiodo nel ginocchio, due lame per i bracciali e un ascensore scendisali. Dai tutti insieme. Parla con me come avete una spina dentro un occhio, un chiodo nel ginocchio, due lame per i bracciali, ascensore scendisali. Dai tutti insieme. Pure la filastrocchetta ci ho fatto. E il balletto, tu pensa a che livelli di disperazione sono arrivato a fare la filastrocchetta col balletto. Perché la musica è sempre la stessa, ma io non so un uomo, so un virus, un bacillo, un programma di sabotaggio alle cene in piedi, ai pranzi in famiglia, alle riunioni di condominio, alle feste comandate. Io parlo praticamente in apnea, una parola di troppo può essere fatale. Se bacio una donna, la mando direttamente all'ospedale. Le donne cadono ai miei piedi come le zanzare davanti al DDT. A mio fratello gli ho rimbiancato casa. Se hai scacciato le impurità? No, se sono suicidate prima, appena hanno saputo che venivo. Dice, è perché mangi male? Ma io non mangio niente, è tutta aria. È un vuoto d'aria riempito dai sospiri della gente, dai cattivi pensieri, dalle frustrazioni del mondo, dalle speranze dell'umanità. A te ti sembra un gesto quotidiano sto gnacche gnacche, ma c'è il male del mondo dietro sto gnacche gnacche. Perché ricordiamolo, parla con me come avete una spina dentro un occhio, un chiodo dal ginocchio, due lame bracciali, ascensore scendisali. Dai tutti insieme. Una spina dentro un occhio, un chiodo dal ginocchio, due lame bracciali, ascensore scendisali. Dai tutti insieme. E la musica è sempre la stessa. C'è il male del mondo dietro sto gnacche gnacche. Forse è perché io mi ingoio l'aria viziata, l'aria scorretta, l'aria di chi va di fretta. Sei sovrappeso? È l'aria fritta che ti ha fatto ingrassare, dai retta a me. Dice, tira una brutta aria. So io che me la ingoio la brutta aria, che te credi? Che passava la nettezza urbana e si succhiava la brutta aria. So io che me ingoio la brutta aria. Sarà per questo allora che c'ho stalido pestilenziale. Ho accumulato il bello e il cattivo tempo della mia contemporaneità. Per questo gnacche gnacche gnacche gnacche. La mattina gnacche gnacche. Pomeriggio gnacco gnacco. E a sera gnocco gnocco. A te ti piace gnacche gnacche, a lui piace gnocco gnocco. Ma questa è un'altra storia. Gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche gnacche. Anche se in fondo la musica è sempre la stessa. Dum dum dum dum. Sta a perdere tempo. Ma io dico, ma che ci stiamo a fare qua sopra? Dico io, ma io sto a perdere tempo con questa. Zitto, zitto, l'hai visto? Che? Guarda, che? Guarda, non vedi? Ma che so? Guarda, guarda, guarda. Ooh. guarda, amore mio, guarda. Che cos'è? Guarda, amore mio, guarda le stelle. Che belle, hai visto, eh? Una gioielleria a cielo aperto. È gratis, eh? Se vuoi guardare. Che belle le stelle, eh? So che quelle stelle lì non ci stanno mica più, eh? No. No? Sono un eco. Un eco? E che vuol dire? Un eco. Sai un eco? È un eco. Un eco, un eco di stelle. Stelle che hanno perso di valore. Un eco di antico splendore. Ma davvero? Eh no? Mi ami? Oh. Lo dico. Mi ami? No. Ecco, lo vedi? Appena ha sentito che le stelle hanno perso di valore del mercato, ha ritirato l'offerta. È proprio vero. Per certa gente il romanticismo oggi è bigiotteria. Intrecci amorosi, parte 3. Pratiche sessuali di Luigino la merda. Sono Luigino, sono vestito male, sono brutto, nessuna mi avrà. Sono sempre Luigino, sono vestito bene, sono bello, tutte mi avranno. Tu mi vuoi, tizia Nuccia? Pure che sono vestito male, pure che sono brutto. Per questo motivo non mi avrai mai. Perché? Perché non apprezzi la differenza fra quando sono brutto e quando sono bello. So tizia Nuccia, ma Luigino ci ho mandato voi a fanculo o ci penso io? No, non lo vedevo da un po', sono 2 minuti che parla e mi si è risvegliata una certa antipatia. Maschilista io? No, assolutamente. Le donne, come dice il buon Dio, una questione di costole. Vedo infatti che certe cose hai imparato a fartele da solo, caro Luigino. Per certe pratiche sessuali, infatti, come dice il tuo Dio, è una questione di costole. Mamma mia, ma che volgarità, ma l'hai sentito? E non va bene così, no, capito, ma visto che ha detto, è una cosa brutta. Io ho capito, ma Luigino è pure una bella merda. Sì, ho capito, ma non si può fare così, però se uno dice queste cose, veramente buonasera a sto punto, buonasera, Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Anna, scusa, senti, dobbiamo parlare. Buonasera. Sì, buonasera. Sì, ho capito che c'è gente. Buonasera. Sì, sì. Anna, dobbiamo parlare io e te, Anna. Buonasera. Buonasera. Sì, no, io e te, Anna. Buonasera. Buonasera. Io e te che cosa siamo? Anna, io buonasera. E te. Buonasera. No, io e te che cosa siamo? Me lo buonasera. Devi dire. Buonasera. Sì, no, perché sennò certe cose. Buonasera. Buonasera. No. Buonasera. Buonasera, mi fate parlare qua Anna un secondo. Capito che buonasera. C'è gente. Buonasera. Sì, no, capito che c'è gente, però insomma buonasera. Anna, buonasera. No, perché uno certe cose. Buonasera. Buonasera. No, se le deve dire, capito? Buonasera. Buonasera. No, perché se no si resta appesi. Buonasera. Buonasera, buonasera. E le cose appese restano appese al niente. Buonasera, al niente, capito Anna? Buonasera. Buonasera. Anna, ma io e te, io buonasera. Te, capito, c'è gente. Non possiamo parlare. Okay. Buonasera. Buonasera, capito, non possiamo parlare. E vabbè, capito. Buonasera. Buonasera, capito, buonasera. Non possiamo buonasera. Parlare. Buonasera. Vabbè, oggi possiamo parlare. Vabbè, ho capito. Buonasera. Buonasera e buonasera Anna, buonasera. Buonasera. E buonasera Anna, buonasera. Buonasera. Buonasera Anna, buonasera. Buonasera. E buonasera Anna, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ma che fai io? Buonasera. Buono questi cazzotti, buono. Buonasera. Buono questi cazzotti, ti prego. Buonasera. Ma io non ho fatto niente. Buonasera. Ma che ti ho invitato a cena? Buonasera. Piano, questi cazzotti, buonasera. Piano. Guardate questo. Buonasera. Ma che ti ho invitato a cena? Buonasera. Piano, per cortesia. Buonasera. Piano, fermati. Buonasera. Il fatto è che io non voglio morire triste e solo. Sì, certo, posso venire a cena qualche volta a casa tua. Però vedi, questo senso di vuoto, questo dramma interiore, questo senso di disperazione. Ecco, diciamolo, disperazione. Cioè non me lo colmi con la torta rustica che mi propini. Sì, no, ma no, perché quella mi propini. Quella torta rustica è lì, capisci? Io te vedo. Tu mi propini la torta rustica. Senti sto vino, è fatto in casa. Ma a casa di chi? Ma chi te conosce? Assaggia ste ova, so del contadino. Sto olio? Buono, eh? Ha fatto il contadino. Sto latte? Assaggia, buono, eh? Ha fatto il contadino. Sto formaggio? Senti sto formaggio, senti, assaggia com'è? Leggero, lavorato bene? Chi ha fatto, eh? Ha fatto il contadino. Sta carne, senti sta carne, senti, senti come brustolina buona, è sicura? Chi ha fatto... Ha fatto il contadino, senti, sto olive, buono, senti, sto olive, senti, assaggia, chi ha fatto? È buono, c'è questo fa tutto, tranne che il contadino, che dovrebbe essere il mestiere suo, primario. Uno si aspetta che il contadino coltivi la terra. Stop! Questo non è un contadino normale. Questo è un pazzo! È uno che non dorme la notte, un arrampicatore sociale. Questo te mette in crisi l'economia di un paese. Tu lo vedi? Lo vedi? È vestito come un contadino, ma lo sai chi è? È Satana! Io vorrei capire chi è sto contadino. Dove l'hai conosciuto sto contadino? In galera. Perché questo è pericoloso, eh? È uno che c'è stacca la testa, questo è matto. Io vorrei sapere chi è sto contadino. Da dove viene? Qual è la sua storia? Qual è la sua visione del mondo? Com'era da bambino? Per esempio, com'era da bambino? Avremmo potuto fare qualcosa del tipo: tema in classe. Io da grande, che cosa vuoi fare da grande? Io da grande voglio fare il contadino. Fermate quel bambino! Imprigionatelo lontano a Elsinor! Che poi uno pensa al contadino prodotto genuino. E di fronte a questa immagine, l'umanità intera si inginocchia. E invoca il contadino inneggiandolo a Salvatore, e lui lo sa! E ride contento sul suo trono, fatto di segale, farro, frumento, cuscus, le verdure, anche buono. Sta lì, contento. Ma io, che sono abituato al riso in bianco, anche te, disperati, non mi compri con la storia del prodotto genuino. Non mi avrai genuino poi, genuino. Frutto del lavoro della mente malata di uno squilibrato che dice di far contadino, ma fa tutt'altro, perché lui è pazzo, non è uno normale. Non ce la trovo la purezza di spirito dietro a sto contadino. Guarda, da sto contadino io non me faccio offrire manco un caffè. No? No. Guarda che buono, eh? Ho capito, non voglio. Ha fatto il contadino. Pure il caffè ha fatto il contadino. Lo sai che ti dico? Lo sai che ti dico? Io vado a mangiare fuori stasera. Me ne vado, guarda, lo sai che faccio? Mi risecco stasera, esco. Mi respiro l'aria del mondo. Vado a mangiare fuori. Bravo, bravo, fai bene, eh? Vero, fai bene, sì, sì. Bravo, vai a mangiare. Sì, sì, vado a mangiare fuori stasera. Vado fuori, sì, va, bravo. C'è un ristorante qua vicino. Se mangia bene, se spende poco. Come si chiama? Dal contadino. Ma vatta a piangere il secchio del contadino, va. Ciu, ciu, ciu. Intrecci amorosi, parte 4. Tiziano. Tiziano da ragazzino stava dentro al passeggino perché aveva paura del mondo. Non più tanto ragazzino, conosciuto un po' di più il mondo, Tiziano ha cominciato ad avere paura inspiegabilmente del passeggino. Superata questa paura cretina del passeggino e conosciuto una volta per tutto il mondo, Tiziano ha cominciato ad avere paura di crescere, di addentrarsi nel tessuto sociale, di perdersi, di tradire se stesso, di innamorarsi, di soffrire, di essere tradito per aver tradito se stesso, o magari di innamorarsi della sofferenza di chi è stato tradito per aver tradito se stesso una volta che si è perso nel tessuto sociale. E va a trovare te stesso una volta che si è perso nel tessuto sociale dopo che si è innamorato della sofferenza di chi è stato tradito per aver tradito se stesso, se diventi scemo! A questo punto era meglio la paura del passeggino. Ma poi un giorno, Tiziano, ma per caso, camminando per strada, per le strade di Roma deserte, vede un uomo da lontano. Quest'uomo lo guarda, si avvicina, parlano. E quest'uomo finalmente gli spiega il mondo. E chi era? Er Catena! Er Catena gli ha presentato un po' di gente che frequenta e so finite i segmentali. So finite! So finite! So Tiziano è felice come ragazzino, come a 6 anni. Ma prima quando giocava a pallone, contento. Sai, da bambino, da ragazzino, quando giochi col pallone, sei contento? No, che stai lì, giochi con gli altri ragazzini, gira la palla, gira la palla. Gira palla, gira palla. Gira palla, gira palla. Gira palla, gira palla. Gira palla, gira palla. Oh, mamma mia, c'è la palla qua. Oh, mamma mia, c'è la palla qua. Se ci prendo qua. Passa la palla qui. Passa la palla, pinta! Ecco. Palla. Palla. Palla. Scusateli, scusateli, i bambini, i bambini giocano. Scusateli, il pallone è finito dentro, succede, succede. I bambini giocano. I bambini giocano. I bambini giocano. I bambini quando giocano, giocano. E quando giocano, giocano un gioco. I bambini giocano, E quando giocano, giocano un gioco. I bambini giocano, E quando giocano un gioco. Ma fingono di non giocare a un gioco. I bambini quando giocano, giocano. E quando giocano un gioco. Ma fingono di non giocare a un gioco. Se giocassero a giocare a un gioco, non giocherebbero realmente. Cioè, se giocassero a giocare a un gioco, non giocherebbero realmente. I bambini giocano, E quando giocano un gioco. Ma fingono di non giocare a un gioco. Se giocassero a giocare a un gioco, non giocherebbero realmente. Se tu provi a dire a un bambino che gioca, che in realtà sta giocando a giocare a un gioco, pur sapendo di fingere di non giocare a un gioco, quello come minimo te sputa in faccia. Perché gli ha detto la madre: sputa! E non se ne esce. E allora si torna indietro. E allora non c'è più niente da fare. E torna indietro e gira la palla, gira, gira, gira la palla. Gira la palla, gira, gira, gira la palla. Gira la palla, gira la palla, passava la. Passava la. Passava la. Ti ho detto passava la. Passava la. Passa, libero, passavala. Passavala. Massa che callo. Ammassa che callo, senti. Passavala. Massa che callo. Passava low, ammazzo. Ho capito, passava low. Sto qua. Ho capito, ma passava low. Sto tre, sto qua, passava low. Fammi la partirella, ma passava low. Ma invitato, passava. Ma telefonato, Gustà, ciao, vuoi venire? Gioca col calcetto, ma passava. Se siamo fatti le divise, gioca tutti insieme, ma passava low. È modo per rivedersi, passare il tempo insieme, tanto che se vediamo Gustà, ma passava low. A Gustà mi dispiace che il lavoro mette da parte un certo rapporto di amicizia costruito nell'anni che col tempo è venuto a mancare. Passava low. Passava low. Passava, sono libero. Sono libero, passa la palla. A volte è vuota, poi perdiamo col calcetto, passava la palla, 10 euro il campetto, passava low. Passava. Pallone alto, tiro al volo, in faccia. Pieno, sangue cade per terra, tutto il sangue di mortaccio. Pieno, chi è stato il mortaccio? Chi è stato? Ecco, l'ho visto. Chi è? Dove sta? Eccolo là, Gustavo Lapia. Dove sta? No, è stato un ragazzino. Chi è stato? Dove sta? Eccolo, ho visto, eccolo. Guarda là, pialo. Zitto. Hai visto un denaro? È nato da qua a parte, Gustà. Fammi andare a piedi, Gustà. Zitto. Denaro, ho visto. Denaro. È nato da qua a parte. Dove? Laggiù. Già sta. Corri. Zitto. Ma da fare due. Zitto. Io trovo questo ragazzino. Ammazzalo. Fammela a casa. Lola! Dove sei questa volta? Lola! E quando cerchi non la trovi mai questa volta. Lola! Agustà! Ecco, mamma mia, che giornata, Lola! Ti vedo diverso, Gustà! Lascia perdere, Lola, una giornata! Fammi un po' vedere, Gustà! Che te sei tagliato i capelli? Te sei tagliato i capelli? No. So contenta che ti sei tagliato i capelli. Non me so tagliato i capelli, Lola. No. So proprio contenta per sta scelta. Lola, te sto di che non me li so tagliati i capelli. No. So contenta che pure che ti sei tagliato i capelli pare a tutti che ti sei tagliato i capelli. È come se te fossi comunque tagliato i capelli senza averlo fatto. Perciò se vuol dire che ti sei tagliato i capelli pure che ti sei tagliati. Ma che cazzo sta a dirlo? Io non so come me ti ricordavi. Me sto così pure ieri. Dici, E di così. E mi sembra strano che sembra a tutti che mi sono tagliato i capelli pure che non mi sono tagliati. Guarda che me lo puoi dire che ti sei tagliato i capelli. Non mi sono tagliato i capelli! Perché non sei sincero? So sincero! Non è vero, sei un bugiardo. Perché non mi dici che ti sei tagliato i capelli, eh? Ti sembra un atteggiamento maturo il tuo? Che cos'è? È un modo per attirare l'attenzione? Un modo per parlare di te? Del fatto che ti sei tagliato i capelli? Non mi sono tagliato i capelli! Sì, sì, ti sei tagliato. Non è vero, lo stai a di te. Io. E di me, invece? Non me lo chiedi se mi sono tagliato i capelli, eh? Non me lo chiedi. Ma che te lo chiedo a fare? Non mi pare che ti sei tagliato i capelli. È certo! Allora, mo perché non pare che mi sono tagliato i capelli, non me lo chiedi. Ma che te lo chiedo. Te sei tagliato i capelli? No. Ma tu mi fai diventare matto a me? Ma tu sei matta? Ma io. Solo di te si parla. Per una volta che ti sei tagliato i capelli, tutti dobbiamo parlare di sto fatto. Tutto deve girare intorno a sta notizia. Ma quale notizia? E fa pure il misterioso. Ma che te pensi, che il mondo sta lì a chiedersi se ti sei tagliato i capelli oppure no? È evidente che ti sei tagliato i capelli. Non serve dire il contrario per farmi felice. Ah, matta! Non me so tagliato i capelli. Lo vedi che sono identico a ieri? Lo vedi che sono uguali? Lo vedi? Lo vedi che sono quello? Vedi che sai parlare solo dei tuoi capelli? Sei monotematico. Che futuro vuoi dare a me e ai figli che avremo un giorno se ti curi solo dei tuoi capelli? Ma io non me curo dei miei capelli. Allora perché ti sei tagliati? Non me li sono tagliati! Sono più corti rispetto a ieri. È evidente che ce n'hai di meno, Gustà. E mi staranno a casca po' stress. Vuoi dire allora che non ti sei tagliato i capelli e che ce n'hai di meno perché te stanno a casca? C'è una buona probabilità che sia così, Lola. E perché? Secondo te perché? Guarda che l'unico modo per rinforzare il bulbo e evitare la calvizie è tagliarsi i capelli. Mi domando a che serve dire che ti sei tagliato i capelli se poi non lo fai visto che ti cadono. Ma io non l'ho mai detto che mi sono tagliato i capelli. Basta, ti lascio. Come me lasci? Ti lascio. Ma come me lasci? Ho capito che non possiamo stare insieme, Gustà. Non ti prenderesti cura di me? Sì. Non posso stare con uno che non si prende cura neanche di se stesso. Soprattutto se gli cascano i capelli e va in giro che si è tagliati. Basterebbe tagliarsi i capelli una volta ogni tanto per rinforzare il bulbo. Non serve poi chissà che. Ma poi, è davvero così importante? Ma infatti a me non me ne frega niente. Infatti, appunto, a te non ti importa niente di nessuno. Di te, di me, di noi. Lo sai a te di che ti frega? A te ti frega solo dei tuoi capelli. Addio e addio. Addio e addio. Addio e addio. E ricorda, ogni tanto è bene tagliarsi i capelli. Ma vai. Il fatto è che non ci s'ascolta. Il problema qua dentro è che non ci s'ascolta. Dentro sta casa non ci s'ascolta. Il fatto è che non t'ho ascoltata più. Probabilmente ho sbagliato, perché non t'ho ascoltata più. Succede. Io non so perché, non so come, non so perché arriva un momento esattamente nella storia di due persone, due esseri umani, in cui arrivato a un certo punto due non si sentono più. Non si ascoltano più, Anna, e forse tu c'hai ragione, forse è così, forse non t'ho ascoltata. Ecco, forse non sono stato in grado, ecco, diciamo così, forse ecco, non sono stato in grado di capire, di vedere, non lo so più. Posso parlarti un secondo? Posso parlarti un secondo? Sì, certo. Vai, sì. Guarda, è successa una cosa tremenda. Ma mi senti? Sì, ti dico di sì, dai. Ma mi senti? Ti dico di sì, dai, parla. Allora, praticamente è successo questo. Ma mi senti? Oh, ti dico che te sto a sentire, dai, parla. Se no famo notte, dai. Ti sento, Anna, ti sento, dai, dimmi. Allora, praticamente è successo questo. Io sono andata. In questa colazione, capito? No, dico, hai capito? Sì. E poi? No, ma tu non hai idea, perché poi è successo a un certo punto che è arrivato Maurizio, no? Chi? Maurizio, e Maurizio ha fatto. Capito, no? Ma mi stai a sentire? Sì, te sto a sentire. No, perché pare che non mi senti. No, te sto a sentire, dico, te sento. Te sento. No, ma poi non puoi capire, perché poi a un certo punto è arrivato pure Federico e Francesca insieme, hanno cominciato a fare un casino, perché quello lì. Non ho capito, tu che ne pensi? No, dico, tu che ne pensi? Che ne penso? Penso... Non mi stai a sentire. No, te sto se... No, non mi stai a sentire. No, te dico, non mi stai a sentire. Ma è sempre così. Ogni volta che io parlo con te, ogni volta che provo a dire qualcosa di importante, di interessante, ma che riguarda anche te, tu non mi senti mai! E io vorrei capire dove va la testa, perché... Vuoi salire da me? Vuoi salire da me? Oh, vuoi salire da me? Lei è lì, davanti al suo portone, e ti sta chiedendo di salire. E tu che fai? Sali, sali! Che stai aspettando? Sali! Lascia perdere, non salì! Sali, sali, infarcoglione! Dammi retta, non te compromette! Sali, sali! Che stasera si tromba! Te me ne sei a casa, lascia perdere! E tu che fai? La luna ti guarda, lei è lì, davanti al suo portone, e ti sta chiedendo di salire. E mentre la morsa del tempo ti stringe alla gola, perché lei non sarà lì per sempre, ti si spalanca davanti un immaginario chiarissimo.